La primavera di Amatrice e Norcia. Come si rialzano le regioni colpite dal sisma. Sono passati quasi 8 mesi dalla prima scossa, quella del 24 agosto, quella che ha portato le immagini di Amatrice sulle televisioni di tutto il mondo, con quel campanile rimasto su in mezzo alle macerie per crollare poi all'ennesima scossa qualche mese dopo. A fine ottobre è toccato invece alla zona dell'Umbria con altre immagini dolorose, la Basilica di San Benedetto di Norcia ridotta ad un cumulo di macerie, tranne che per la facciata comunque gravemente lesionata. E poi ancora le immagini delle tante persone rimaste senza casa che hanno resistito quanto hanno potuto in quei paesi che non hanno mai smesso di tremare dal 24 agosto e che alla fine si sono arrese. In migliaia infatti si sono trasferite sulla costa, negli alberghi, per ritrovare una notte libera dalla paura. Ora però basta, ora è arrivato il momento di ricominciare, di ripartire in questa terra incastrata fra le montagne di Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo. È ora di ricominciare a lavorare, di tornare alla normalità per quanto possibile. Nessuna ripartenza però è possibile se non potranno tornare a lavorare gli agricoltori, gli allevatori, che sono tantissimi in questa parte d'Italia, e poi ci sono le piccole e medie aziende di cui questo territorio è così ricco, e naturalmente il turismo in una zona che davvero è fra le più belle del nostro paese. Io ne so qualcosa visto che da queste terre arrivo, e di questo vogliamo parlare questa mattina. Vogliamo un po' stuzzicare, come dire, la vostra curiosità per queste zone e magari convincervi a fare un salto questa primavera o quest'estate. Venite a Norcia, c'è un'area che è stata ferita dalle ripetute scosse di questi 6 mesi e che sta con coraggio rimettendosi in piedi. Ecco, così invitava tutti a visitare questa parte d'Italia il premier Gentiloni in febbraio. Sì, perché la natura, la montagna, i colori di queste parti che sono incastrate sulla spina dorsale del nostro paese sono davvero imperdibili. A cominciare dalla Piana di Castelluccio, che è davvero un posto magico, un posto fantastico. Lo hai visitato di recente anche tu, Raffaella Calandra, che è qui accanto a me, che voglio in questa parte del nostro speciale, perché lei è andata in un momento non fortunato per questo periodo a conoscere queste zone. Purtroppo drammatico. Io arrivai a Castelluccio la mattina dopo del terremoto del 30 ottobre e fu già assai complicato arrivare a Castelluccio perché le strade erano completamente chiuse, sbarrate da frane, da smottamenti, e soltanto con l'uso dei mezzi di soccorso riuscii ad arrivare attraverso una mulattiera e un percorso assai complesso in questa piana, dove c'era una situazione surreale, laddove era evidente la pace, la bellezza di questo altopiano ai piedi dei Monti Sibillini, e poi davanti quel che restava di un borgo di cui si riconosceva la bellezza ma che era ridotto assolutamente, totalmente a macerie. Ho camminato su quel che erano i tetti e i resti delle case, dei bed and breakfast, dei ristoranti, delle taverne di questo piccolo paesino arroccato appunto sopra Norcia, e si sentiva il brivido proprio di un paese che era sgretolato completamente. Però ora è il momento di ricominciare, dicevamo in apertura di programma. Quindi da dove ripartiamo in questa zona? Ripartiamo, direi, e ce lo faremo raccontare proprio da chi in questo momento, in queste ore lì, ripartiamo da quello che è un evento simbolo di questa zona, ossia la fioritura di Castelluccio. Le immagini della viola, della lenticchia, del rosso dei papaveri, del giallo dei fiori, insieme ad essere l'immagine un po' della primavera, sono forse il simbolo di questa rinascita proprio del paese, del borgo, che è diventato il simbolo sia della distruzione che ora vuole essere la bandiera della ricostruzione di questa zona. E non a caso Rinascita Castelluccio si chiama proprio un progetto sostenuto soprattutto dalla Perugina, che porterà a ricostruire un villaggetto in legno a Castelluccio che serva agli agricoltori che stanno in questo momento portando avanti le operazioni di semina, e che servirà poi ai turisti per ritornare ad andare a vedere la bellezza della fioritura, sì, di Castelluccio. Perché non ci sarà fioritura se non ci fosse semina in questo periodo, naturalmente. Esatto, e una semina che è stata raggiunta anche dopo difficili trattative, proprio perché perché le strade erano interrotte, ma alla fine si è riusciti a portare con una lunga carovana di trattori e un percorso assai lungo e accidentato tutti gli strumenti, e poi l'esercito ha portato le sementi, come ci racconta Gianni Coccia, che è in linea con noi. Allora Gianni Coccia, del Consorzio Lenticchia di Castelluccio, alla fine siete riusciti a seminare? Sì, fortunatamente siamo riusciti a salire a Castelluccio grazie all'aiuto delle autorità locali, delle autorità regionali, che ci hanno in qualche modo permesso di poter utilizzare la galleria e raggiungere Castelluccio con tutti i mezzi. Ed è stato un momento veramente emozionante, in particolare ritornare su quella terra che, dalla quale siamo dovuti scappare, andare via il 30 ottobre, siamo dovuti andare via tutti quanti. Quindi quella che è la semina per voi, un evento normale di tutti gli anni, quest'anno si è trasformato in un evento più emozionante probabilmente, no? Certamente, in un evento particolare, perché essere, ripeto, tornati di nuovo su quella nostra terra tanto amata è stato un momento veramente toccante, tutti insieme soprattutto. Questa è la cosa più bella, che tutti quanti abbiamo dovuto attraversare quella montagna colpita e ferita dal terremoto, le strade sono state gravemente danneggiate e spero che siano ripristinate nel più breve tempo possibile per far godere veramente tutti i turisti che arrivano a Castelluccio del momento magico della fioritura. Ecco Coccia, quando potrebbe essere quest'anno la fioritura, visto che la semina è stata un po' in ritardo rispetto ai tempi tradizionali? Allora, noi ci stiamo impegnando giorno e notte per poter accelerare i momenti della semina, proprio per cercare di arrivare anche quest'anno tra il 20 giugno e i primi di luglio, quindi i primi 10 giorni di luglio, a far apprezzare di nuovo la fioritura. E quindi chi verrà a Castelluccio ritroverà una sorta di villaggio alternativo dove poter incontrare la popolazione del paese e anche assaggiare, no, la famosa lenticchia e tutti gli altri prodotti, è così? Certamente sì, come è già stato detto c'è un progetto di rinascita Castelluccio organizzato da Perugina e lì verranno delocalizzate tutte quelle attività economiche del paese che sono state danneggiate dal sisma, e lì è possibile assaggiare e gustare i nostri prodotti della nostra terra. Assolutamente, grazie Coccia, grazie mille e in bocca al lupo, ci vediamo lì per la fioritura allora. Vi aspettiamo tutti, mi raccomando, quest'anno più numerosi che mai. Assolutamente, è un invito che facciamo davvero a tutti i nostri ascoltatori. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi, viva il lupo, grazie. E da Castelluccio ci spostiamo non tanto lontano, perché siamo a Norcia. Poco più giù. Piera, io aggiungerei anche, oltre per godere... Anche a Norcia si mangiano delle cose meravigliose. Tutte le cose. Passeggiare per la città di Norcia, che purtroppo in questo momento non è possibile, fra le norcinerie che sono proprio tipiche di questa città, è davvero un'esperienza che speriamo di poter rivivere molto presto. Sì, no, dicevo di aggiungere, oltre a tutte le bontà che abbiamo sentito elencare, aggiungere la possibilità di poter godere anche della pace di questo altopiano. La sensazione, nonostante quel terremoto, la sensazione di pace, di bellezza, ma anche di storia che questa zona trasmette, allora devo dire davvero una sensazione molto forte, che spero si possa tornare tutti quanti a godere, perché è facile immaginare arrivare in questo altopiano come una conquista e di godere proprio della bellezza della vallata sotto. Quindi sì, è Norcia, stupenda, davvero stupenda, è il posto dove San Francesco passeggiava del resto. Non a caso quindi, adesso anche proprio tutti il cammino di San Francesco, di San Benedetto, sono diventati anche proprio dei percorsi turistici che attraversano. Bellissimi da fare, assolutamente. Salutiamo il nostro prossimo ospite, Roberto Canali del consorzio We Are Norcia. Salve. Salve. Allora, Canali, che cos'è il vostro consorzio? Cosa fa? Quante aziende? Il nostro consorzio conta quasi 80 aziende al momento, sono imprese piccole e medie, è un consorzio che è nato come reazione al terremoto del 24 agosto e poi ha proseguito la sua azione e il suo scopo anche dopo il 30 di ottobre. Voi state anche proprio mettendo a punto tutta una serie anche di iniziative, anche non so, in vista dei prossimi ponti e poi soprattutto dell'estate, per anche dare una ragione in più per tornare a visitare queste zone dove c'è stato chiaramente un calo di turisti dopo i mesi del terremoto, ma si spera che questa primavera e l'estate significhi anche il ritorno non solo di turisti italiani ma anche di turisti internazionali. Sono ritornati? Sicuramente all'estero il terremoto ha colpito di meno l'immaginario, perché non sono stati bombardati di immagini su ogni telegiornale a tutte le ore del giorno e della sera, quindi effettivamente riscontriamo che ovviamente c'è un calo anche nelle presenze del turismo atteso dall'estero, ma è molto meno forte in percentuale che non quello dall'Italia. Comunque, Canali, che diciamo a questi italiani, perché dovrebbero venire dalle vostre parti? Non si vedono solo macerie? Il nostro territorio è rimasto intatto. Quello che si può vedere affacciandosi sulla piana di Castelluccio di Norcia o dai monti affacciandosi verso Norcia, o nelle profonde vallate della Valnerina o tra i boschi della Valnerina stessa, facendo rafting sul fiume, andando in una forra o facendosi accompagnare dalle guide in escursioni nei monti sibillini, tutto questo si può tuttora fare, andare a cavallo, noi organizziamo trekking con asini e con i muli. Sono tutte attività che si possono continuare a fare, si può ovviamente, l'agricoltura e la terra continua a produrre, anzi. Grazie a Roberto Canali del consorzio We Are Norcia. Grazie a voi. Norcia, quindi Umbria. Ora invece ci spostiamo nelle Marche, altrettanto belle e ricche di cose da vedere, di straordinaria bellezza, e salutiamo Moreno Pieroni, assessore al turismo della Regione Marche. Salve Pieroni, benvenuto a Radio 24. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, le Marche, lo sappiamo, non dobbiamo purtroppo raccontarlo ancora di quanti danni abbiano subito a causa del terremoto, però si diceva ora è il momento di ripartire anche nelle Marche sulla costa che non è stata toccata invece dall'evento sismico, se non insomma è stata lambita dall'evento sismico, diciamo, ma non ha subito pesanti danni, e che invece si è trovata a offrire ospitalità a molte delle persone che hanno perso la casa più nell'interno. Qual è la situazione attualmente e quali sono le prospettive? Perché insomma, gli albergatori a questo punto sono stati molto generosi, hanno accolto gli sfollati con grande animo e spirito di generosità, però dovranno anche loro tornare a lavorare normalmente. Ma diciamo che rispetto naturalmente ai primi giorni, al primo mese dopo il terremoto, ormai qui nelle Marche dal punto di vista del sistema a tutto tondo ci si sta riorganizzando abbastanza bene. I marchigiani hanno questa grande capacità. Diciamo che noi stiamo facendo un percorso, spero condiviso con tutto il sistema, per dire la Regione Marche ha messo a disposizione altre strutture, se servono sono lì, se no voi potete rimanere, se gli alberghi o i campeggi non hanno problema a mantenervi nella struttura. Per noi va bene così. Anche perché appunto si ritorna alla normalità anche tornando ad accogliere i turisti che nelle Marche vanno per godere il mare, le colline, i paesaggi. E si spera, assessore, che vengano numerosi. Non è che magari dall'estero saranno spaventati da quello che è successo. Guardi, è chiaro che i segnali che noi abbiamo, un po' grazie all'impegno e alla promozione che abbiamo messo, un po' proprio perché le bellezze a tutto tondo della Regione Marche, paesaggistiche, culturali, gastronomiche della costa, sono bellezze che chiaramente sono facilmente come dire, interessanti per il turista, in particolar modo per il Nord Italia e naturalmente per i turisti esteri, dove noi fino ad anno scorso avevamo dei picchi di crescita molto molto alti rispetto alle altre regioni, e devo dire che avendo fatto tutta una serie di fiere, Berlino, Monaco, Londra, Mosca, Utrecht, diciamo che la percezione che hanno avuto i nostri operatori in quelle fiere è quella di che i turisti stranieri torneranno a visitare questi posti, di ancora cuore, la voglia e il piacere di venire nella nostra regione. Anche perché lo ricordiamo, appunto, la costa non ha subito alcun danno, quindi tutta la parte che riguarda il mare è davvero assolutamente normale come tutti gli altri anni. Come lo sono anche altre bellezze delle nostre aree interne. Possiamo anche dire che qualcuna. Macerata, Ascoli Piceno hanno avuto dei danni, perché insomma è inutile nasconderlo, sì, però sostanzialmente sono visitabili. Però sono delle città che già sono pronte ad accogliere il turista. Ecco, non solo sono pronte, ma hanno proprio bisogno, no? Dell'aiuto, sì, del turismo per risollevarsi economicamente e anche moralmente, perché è stato un inverno davvero molto duro. Sicuramente è stato un inverno duro. Abbiamo cantierato, ecco, questa credo che sia una delle, siamo la regione forse tra le più, come dire, strutturate da questo punto di vista, il collegamento con le nostre ciclabili, le piste ciclabili. Oggi il turista straniero e del Nord Italia in particolar modo vogliono mare, ma anche opportunità di un turismo sostenibile. Su questo noi abbiamo già individuato tutta una serie di percorsi trasversali molto importanti, quindi la possibilità di collegarsi dalla costa fino alle aree interne. Quindi, assessore, se ho ben capito, in bici anche per vedere e ripercorrere tutte le varie bellezze anche d'arte che sono state portate fuori dai paesi colpiti dal terremoto, ma che comunque sarà possibile continuare ad ammirare tra una pedalata e l'altra, tra un paese e l'altro, appunto, in un percorso turistico marchigiano. All'interno di queste mostre noi inseriremo tutta una serie di prodotti enogastronomici delle aree interne colpite, quindi così avremo un duplice obiettivo: far gustare le nostre prelibatezze ai turisti, ma soprattutto creando un'economia anche al sistema delle imprese che in questo momento stanno, naturalmente, che sono all'interno dell'area un po' in difficoltà. Grazie infinite e davvero buona stagione turistica a lei e alle Marche. Naturalmente la cosa migliore per conoscere questa zona così duramente colpita da una lunga scia di scosse di terremoto, senza dimenticare poi che questi luoghi sono stati massacrati anche da un inverno che si è rivelato particolarmente rigido, tanto da causare tragedie come quella di Rigopiano, che abbiamo ancora tutti davanti agli occhi. Ebbene, la cosa migliore è proprio quella di andare a visitarle, queste zone, non solo perché lo meritano in quanto davvero molto belle, ma anche perché la vita normale non può ripartire senza lavoro e il turismo è una componente importante del lavoro. Però una buona occasione per ammirare alcune delle opere d'arte marchigiane viene offerta in questi giorni anche dalla Galleria degli Uffizi a Firenze, dunque, che ha deciso di mettere a disposizione gli spazi dell'aula Maglia Becchiana per ospitare le opere salvate dai crolli e dalle macerie. L'esposizione si intitola Facciamo presto, Marche 2016-2017, tesori salvati, tesori da salvare. I danni sono stati pesanti, infatti, anche per il patrimonio culturale. Oltre 2500 le segnalazioni di beni danneggiati ricevute dalla soprintendenza, soprattutto chiese. La sola diocesi di Camerino, giusto per citare qualche numero, ne conta 350 inagibili su 486 in 34 comuni. E sono oltre 11.000 i recuperi effettuati dai tecnici del MIBACT, dai vigili del fuoco, dall'esercito e dai tecnici delle università e carabinieri. Inoltre un euro di ogni biglietto, questa è una cosa importante, sarà destinato al risanamento delle opere danneggiate dal sisma nelle Marche. Vediamo se ho detto tutto giusto, ce lo facciamo confermare da Carlo Birrozzi, che salutiamo, benvenuto a Radio 24. Grazie, buonasera a tutti. Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, curatore di questa mostra Marche 2016-2017. Ci racconta che opere possiamo vedere lì agli Uffizi, dove l'avete trovate, da dove l'avete recuperate? Allora, abbiamo raccolto queste opere nelle chiese, in palazzi, in museo di quasi tutta la zona terremotata, nelle province di Ascoli, Fermo e Macerata. Vengono da Visso, vengono da Castel Sant'Angelo sul Nera, vengono dal Fermano e dai paesi dell'Alto Ascolano colpiti dal terremoto. Che sono chiese pienissime di chiese, sono davvero sì, ogni piccolo centro diffuso. Ne ha almeno una. Almeno sì, una. Almeno una. E dentro cosa c'è? Di che opere si tratta? Sono soprattutto tele? Che cosa? Guardi, partiamo, abbiamo fatto una scelta di circa 30 opere, sono opere le più variegate possibile, perché abbiamo voluto dare un'idea di quello che si può trovare venendo nelle Marche. Si passa da tessuti orientali del IX secolo, che sono conservati in alcuni musei di Ascoli, al reliquiario donato da Sisto V a Montalto Marche, un reliquiario di un importantissimo orafo francese della fine del XIV secolo, tele di pittori che hanno lavorato nelle Marche, di pittori marchigiani come Paolo D'Avisso o di pittori che hanno portato la cultura veneta nelle Marche come i Crivelli, fino ad arrivare al Tiepolo, forse l'unico Tiepolo conservato nelle Marche, quindi oreficerie, tessuti, dipinti su tavola e dipinti su tela. Però c'è un personaggio che lei non ha citato, che forse è il più noto al grande pubblico, il più noto marchigiano, e stiamo parlando di Giacomo Leopardi. Di Giacomo Leopardi. Noi abbiamo fatto questa scelta, abbiamo messo all'ingresso della mostra tre campane, che sono il saluto delle comunità delle Marche colpite dal terremoto, all'ingresso. E il viatico è un po' lo sguardo che tutti conoscono sulle Marche, è il racconto di quei monti azzurri che Leopardi ha fatto nelle sue poesie. Lo abbiamo messo come saluto finale, come viatico per accompagnare i visitatori degli Uffizi in un viaggio nelle Marche. Certo, quella degli Uffizi è una vetrina importante per queste opere, no? Che generalmente vengono visitate solo dai turisti qua e là, anche in paesi molto piccolini, quindi sì, quella degli Uffizi vuole essere un po' una vetrina per ridare nuovo slancio al turismo di questa zona delle Marche. Sì, noi abbiamo accettato molto volentieri questa occasione che ci è stata offerta dal direttore degli Uffizi, e prontamente abbiamo preparato questa mostra in pochissimo tempo, perché pensiamo che ci aspettiamo in questi tre mesi almeno 500.000 visitatori, e quindi saranno 500.000 persone che si portano a casa il ricordo di questa regione colpita dal terremoto, ma anche veramente molto molto ricca. E magari sarà venuto loro voglia anche di andarla a visitare dopo aver visitato la vostra mostra agli Uffizi. Grazie mille, grazie a Carlo Birrozzi, grazie, soprintendente dell'Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche. Ringraziamo anche Raffaella Calandra per averci aiutato a realizzare questo approfondimento. Ci fermiamo per qualche istante. La primavera di Amatrice e Norcia. E dalle opere d'arte recuperate ad un altro genere di opera d'arte, quella del cibo. In Italia ogni regione, ogni spicchio di territorio ha una sua tradizione culinaria, una sua specialità. Specialità in questo caso è diventata proprio il simbolo di questo terremoto, e parliamo naturalmente della matriciana, piatto buonissimo, conosciuto in tutta Italia, forse anche fuori dall'Italia. Allora, la matriciana è finita sulle magliette, sui gadget di ogni tipo, sui siti di informazione di tutto il mondo, ed è diventata anche un veicolo per la raccolta di fondi a favore delle popolazioni colpite dal sisma. Qui accanto a me Valentina Furlanetto, che ci aiuterà a capire che percorso hanno fatto questi soldi, che fine hanno fatto questi soldi raccolti in un momento di grande commozione collettiva. Allora, Valentina, ciao. Ciao Piera, sì, è stato un momento in cui tutti ci siamo sentiti in dovere, oltre che per piacere, in dovere di assaggiare una matriciana solidale, perché si sono moltiplicate le iniziative di questo tipo un po' in tutta Italia. Tra l'altro, negli stessi giorni del terremoto era prevista la festa della matriciana ad Amatrice. E sì, questa, io ero in quella zona proprio in quei giorni, e tutta la città era ricoperta dai manifesti, parlo di Ascoli Piceno, certo, che invitavano ad andare, e suonavano davvero un po' grotteschi. Sì, erano grotteschi, però sicuramente questo è un piatto conosciuto, anche proprio il nome lo dice, per la nomea, insomma, che viene da questa città. E quindi subito si è scatenato soprattutto il popolo dei social cosiddetti, in particolare un food blogger che si chiama Paolo Campana aveva lanciato questa iniziativa simpatica, divertente e solidale di donare 2 euro per ogni amatriciana e aveva proposto di devolvere questi soldi alla Croce Rossa. Ci sono state subito tantissime adesioni, bisogna dire, soprattutto tra alcune trattorie storiche di Roma, a Trastevere, poi anche dalla Federazione Italiana Cuochi, chef stellati come Antonello Colonna di Roma e altri chef che hanno subito aderito, e la Croce Rossa si è trovata, insomma, a dover gestire una raccolta abbastanza spontanea, no? E noi perché siamo, non era partita da loro questa raccolta, però poi i soldi a loro arrivavano da gestire in teoricamente qualche modo. Sì, in realtà è molto spontanea, gestita dai piccoli e grandi ristoratori, appunto chef stellati, in maniera così molto spot, non bisogna neanche stupirsi di questo. C'era ovviamente una ondata emotiva molto forte e l'iniziativa era anche simpatica, e quindi noi siamo andati a vedere a distanza di tempo che fine hanno fatto tutte queste amatriciane solidali, al di là dello slancio degli italiani, dello slancio verso la cucina oltre che verso l'aiuto ai paesi terremotati. E l'abbiamo chiesto, abbiamo in collegamento Massimo Pesci, responsabile fundraising della Croce Rossa Italiana. Benvenuto. Buongiorno a voi. Salve. Allora, Massimo Pesci, l'abbiamo raccontata in questa maniera e penso che corrisponda, no? È stata uno slancio spontaneo. Una sintesi migliore di quelle che normalmente riesco a fare anch'io quando mi chiedono com'è andata questa campagna. Quindi, e come quindi è andata? L'intervista è finita qua. Una rappresentazione perfetta della dinamica con cui è nata questa iniziativa. E noi però vogliamo sapere, gli italiani vogliono sapere se e quanto è stato raccolto. Lei ce lo può dire? Come avete detto voi, questa cosa è un po' l'ice bucket all'italiana, no? Chi ricorda quello che è successo qualche anno fa con i secchi d'acqua. Nel nostro caso la matriciana, avete detto voi, è una sorta di patrimonio nazionale, culturale oltre che culinario, quindi poi è stata presa un pochino da, correttamente, perché appunto è un patrimonio libero, è stata presa da tantissimi come l'oggetto su cui puoi mettere insieme persone, eventi eccetera e fare raccolta fondi anche non destinata solamente a noi. Il blogger che ha avviato questa cosa propose Croce Rossa e gliene siamo ovviamente molto grati, ma il sistema era, come dire, molto libero. E qui interveniamo noi perché invece sulla fase di rendicontazione siamo molto, come tutte le organizzazioni che prendono seriamente questo tema, siamo invece molto rigidi, nel senso che noi possiamo rendicontare un evento se io lo controllo dall'inizio alla fine. Sì, ma abbiamo ricevuto le donazioni. Quindi quanto avete ricevuto in sostanza? Allora, facendo una ricerca sui nostri conti correnti abbiamo trovato una somma che è intorno ai 100.000 euro, un pochino meno. Di 100.000 euro, abbiamo capito bene? 100.000. Quante amatriciane sono? Facciamo che era conto, di quelle poi. Donazioni e diciamo certamente riconducibile a questo, perché le persone che avevano fatto la donazione nella causale di versamento avevano messo quello che noi avevamo suggerito essere la causale univoca, quindi ristoratori, comitati, diciamo questo tipo di donatori. Pensavo di più, però io infatti pensavo di più. 100.000 euro è relativamente bassa come più, cifra, però lei capisce che noi abbiamo ricevuto ovviamente migliaia di donazioni da privati. Io non posso sapere se trovo la donazione fatta da un ristorante, se sia fatta per la matriciana solidale. Quindi sotto la causale amatriciana solidale 100.000 euro, certo, circa. Ho capito. Certo. Teniamo buono questo dato, che però è l'unico sicuro, no? I 100.000 euro con la causale proprio amatriciana solidale. Esatto. Questi sono quelli che noi possiamo ricondurre, come d'altra parte non possiamo per certo a quella roba lì. Andate. E dove sono finiti questi soldi? Come li avete utilizzati? Perché poi agli italiani interessa molto anche questo, no? Perché che sia la matriciana, sì, che siano i 2 euro, che c'è sempre il dubbio dove arriveranno questi soldi, come verranno utilizzati. Le donazioni per il primo mese circa, dopo l'emergenza, per le attività immediate che non riuscivamo a coprire in altro modo, potete tipo immaginare beni di prima necessità, tutto quello che ad esempio non arrivava con donazioni immateriali, no? Ci sono stati donati molti beni immateriali per fortuna, ma non sempre le cose che ci donano possono essere utilizzate. Pesci, lei mi diceva prima, quando ci eravamo sentiti, prima di questa trasmissione, che appunto la solidarietà spontanea è sicuramente interessante e da, così, da premiare, però molto spesso è più pragmatico per voi avere delle donazioni, magari con una causale proprio legata al terremoto. Esatto. Noi preferiamo avere una donazione con una causale blindata, di cui poi ci viene chiesto conto, piuttosto che una donazione in beni che possono essere utili ma va concordata prima. Quindi in generale motivo... sempre meglio i soldi, diciamocelo, così voi sapete come gestirli meglio, è una causale molto precisa, molto circostanziata. Questo è il suggerimento che possiamo dare. Che siano state proprio esplicitamente richieste. Abbiamo fatto un elenco sul nostro sito proprio per dire non portateci tutto anche se generosamente, anche perché c'è anche un tema di, mi permetto di dire, di dignità, nel senso che è vero che chi ha perso tutto in quel momento è momentaneamente, veramente fisicamente in mezzo a una strada, ma non è un buon motivo perché si debba mettere dei vestiti usati di qualcun altro che forse non gli vanno neanche così bene. Cioè, cerchiamo anche di conservare, no, in un momento di difficoltà anche un po' una cura della persona, che poi siamo noi se ci capita una cosa, non è una persona, certo, come dire, che era in una condizione tale da cui da accontentarsi. Quindi c'è anche un tema di cura anche proprio etica, no, della persona, per cui gli va dato quello che gli serve sempre in una, come dire, in una forma che lo rispetti anche in un momento così complesso. Cioè, questo penso sia abbastanza intuibile. Per questo abbiamo lavorato molto bene con la grande distribuzione tutta, che è stata generosissima con noi, perché noi proprio ordinavamo quello che mancava, se ovviamente avendo questa possibilità di farlo. Ci arrivavano le cose che servivano, poche cose, per pasti veloci, che si cucinavano bene, che si, cibi che si conservano. Ci sono molte occasioni adesso di magazzini di beni che non sono stati consumati, ora sono un problema per i comuni, perché vanno smaltiti. Quindi non coordinarsi su questo vuol dire magari creare al comune un onere nei mesi successivi. Quindi diciamo, la macchina del soccorso e anche della generosità ha una sua logica, volendola rispettare. Grazie, grazie mille a Massimo Pesci, responsabile fundraising della Croce Rossa. Grazie a voi. Da chi la matriciana l'ha utilizzata per raccogliere fondi, a chi la matriciana la sa fare e come. Salutiamo Andrea Giuseppucci. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Allora, Andrea è un cuoco, uno chef, quindi la matriciana immagino che tu la sappia fare come dicevamo. Però che cosa ti è successo, Andrea? Cosa è successo al tuo ristorante? Niente, quando siamo partiti, diciamo, con la stagione invernale, purtroppo con la scossa del 30 ottobre il ristorante è rimasto parzialmente inagibile. Purtroppo soprattutto sulla parte della cantina e del magazzino abbiamo dovuto purtroppo abbandonarlo. E dov'è il tuo ristorante, Andrea? Il ristorante era a Tolentino, in provincia di Macerata. Quindi una zona che è stata particolarmente colpita, sì, Tolentino. Ha più o meno 5-6 mila sfollati, purtroppo, per causa del terremoto. Però tu non ti sei dato per vinto, perché hai deciso che volevi continuare a cucinare, a fare il tuo lavoro, giustamente. Sì. Allora come hai potuto proseguire nella tua attività? Ma diciamo, avevamo varie offerte sia per riaprire il ristorante fuori dalle Marche sia nelle Marche, ma poi però purtroppo non avevamo ancora quella forza di dire sì, ripartiamo con la Gattabuglia. E abbiamo ricevuto la... Che è il nome del tuo ristorante, perché hai detto sì, così. Sì, mm-hmm. E abbiamo ricevuto una telefonata da Italy, da Farinetti, che ci ha invitato per un tour di 6 mesi con loro, che partiva da Firenze, poi andava a Torino, poi Milano, poi 2 mesi a Monaco di Baviera e poi l'ultimo mese a Roma, a luglio. E abbiamo accettato subito, perché poi è un'esperienza che ti fa anche capire un attimino il processo economico che c'è nelle grandi città, magari in un'ottica poi futura imprenditoriale potrebbe essere un aiuto anche per noi. Certo, puoi imparare molto anche da questa esperienza. Sì, sì. Facciamo una cucina leggermente diversa da quella che poi facevamo al ristorante, perché è meno provocatoria, meno di ricerca, ma molto più tradizionale, che va un attimino a far conoscere materia prima marchigiana, come il ciauscolo, che è un nostro salame, il varnelli, che è un distillato all'anice. Ripeto, una cucina molto diversa da quella che facevamo al ristorante, ma comunque molto interessante, molto pop e secondo me in una città come Milano, perché in questo momento siamo a Milano, può essere molto molto apprezzata. Va bene, ora ci racconterai come sta andando la tua esperienza. Prima però ascoltiamo le notizie che arrivano dalle strade. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta la primavera di Amatrice e Norcia. Andrea Giuseppucci, chef del ristorante La Gattabuia di Tolentino. Il ristorante purtroppo è chiuso perché è inagibile, perché è lesionato dal terremoto. In questo periodo è in giro per l'Italia per far conoscere i prodotti e le ricette marchigiane, ospite di diverse strutture, fra cui Italy. E ci stava parlando della sua esperienza appunto da Italy a Milano. Come sta andando, Andrea? Sta andando bene, le persone già ci conoscevano per il ristorante a Tolentino, quindi abbiamo avuto molte molte visite di clienti già, non dico abituali perché comunque ci sono 500 km di distanza, ma persone che erano già venute al ristorante e che poi ci sono venute a trovare, ho moltissimi amici, anche cuochi, quindi siamo per ora stiamo molto molto bene, sia proprio a livello di lavoro che a livello personale, perché stiamo lavorando bene e speriamo di continuare così per tutto il mese. Sei stato anche a Torino, ospite del Circolo dei Lettori, insomma sì. Ti stai facendo dei bei giretti, non è che poi alla fine non torni più a Tolentino anche quando potrai e resterai in giro per l'Italia, no? Ma guarda, tra le varie ipotesi c'era proprio questo, diciamo, che avevamo all'inizio un po' per rabbia, un po' per delusione, abbiamo detto anche più volte che forse il nostro futuro era più dalle parti tra Milano e Torino che giù. Però riflettendoci bene credo che l'unico posto per poter continuare a fare ricerca, diciamo, il posto a mia misura è Tolentino, quindi l'obiettivo, perché non ho sogni ma solo obiettivi, è quello poi di riaprire la Gattabuia a Tolentino, perché penso sia l'unico posto in cui posso veramente esprimermi, e poi di una bellezza che dove io non riesco a trovare altre strutture che possono eguagliarla, quindi penso e spero che la Gattabuia aprirà, ma poi non preclude altre aperture anche in giro per l'Italia, con una cucina molto più pop, molto più alla portata, no, del cliente che vuole mangiare senza per forza scoprire mille sapori nuovi. Certo, e la tua speranza è di riuscire in tempi brevi, oppure come la vedi? Perché insomma, per esempio la stagione estiva, con la speranza anche di avere un po' di turisti che torneranno da quelle parti, sarebbe da non perdere. Ma io sono molto realista, so per certo che se non metti i soldi tuoi in questo momento è difficile riaprire aspettando contributi o aiuti dallo Stato, perché in questo momento c'è una grandissima confusione. In più, ripeto, il mio locale era tutelato dai beni culturali italiani, quindi un locale di proprietà del comune, e come tutti gli immobili di proprietà di enti pubblici non è semplice. Fanno ancora più difficoltà a ripartire. Penso che qual è la tua specialità, Andrea? Ma non ho specialità, la nostra è una cucina molto molto personale che si basa su stati d'animo di chi poi vive dentro il ristorante, di provocazioni, di ispirazioni dall'arte, dai grandi artisti degli anni 50, da omaggi a grandissimi scrittori, quindi dire un piatto, scegli quello che ti sta più a cuore in questo, diciamo, momento, visto che seguono le tue emozioni, i tuoi piatti, qual è la tua emozione del momento e dunque il tuo piatto? Ma quello, diciamo, un pochino più che ci ha reso un pochino più noti tra mille virgolette, la parodia dell'insalata di seppia, che è un piatto che va un attimino a com'è a com'è, non abbiamo capito la parodia dell'insalata, la parodia di un'insalata di seppia. È un piatto che va a riprendere un po' il piatto tradizionale che mangi in ogni chalet, no? Questa seppia stracotta con olio e aceto, noi invece la serviamo cruda, tagliata come se fosse un prosciutto, con la sua testa che poi viene cotta alla brace e viene messa all'interno di questa sfoglia di seppia cruda, tutto un lavoro con tutte le parti nobili e non nobili della seppia, dall'occhio al fegato, al suo nero. E così abbiamo dato pure una ricetta, Andrea. Grazie mille, grazie davvero, e in bocca al lupo. Spero che questa tua esperienza in giro per l'Italia continui, perché comunque è bellissima e sarà anche una crescita professionale per te, però insomma che poi tu possa tornare presto a Tolentino. Grazie mille. Grazie a voi. Ristorante. ristoranti, abbiamo parlato di ristoranti, dunque patrimonio culinario, quadri e pezzi d'arte, dunque patrimonio artistico, ma il tessuto di un territorio ha un'altra componente molto importante. È la scuola. Scuola ed università che da settembre, quindi dall'apertura dell'anno scolastico e poi dell'anno accademico, hanno vissuto problemi organizzativi enormi. Molte scuole sono state ricomposte sulla costa, dove parte della popolazione dell'interno è stata costretta a trasferirsi. Molte scuole hanno trovato ospitalità in strutture temporanee, ma non si sono riusciti ad evitare doppi turni e disagi di altro tipo, disagi che sono andati via via risolvendosi per fortuna con il passare dei mesi, come a Norcia e a Cascia. E di queste due realtà parleremo ora con Rosella Tonti, che è dirigente scolastica di varie scuole di Norcia e Cascia, che finalmente hanno ritrovato proprio di recente una parvenza di normalità. Salutiamo Rosella Tonti, salve. Salve. Allora, ho detto giusto, avete finalmente ritrovato un po' di normalità proprio di recente? Sì, beh, diciamo parecchia normalità, nel senso che il disagio iniziale per le sedi scolastiche, insomma, sta avviandosi verso la completa soluzione. Dove vi siete trasferiti? Sì, dunque, per quello che riguarda Norcia, che era un po' più complicato, avevamo prima una serie di moduli, appunto, dove svolgevamo la turnazione antimeridiana e pomeridiana. E adesso il 31 marzo abbiamo inaugurato la nuova scuola primaria, quindi siamo passati in orario antimeridiano anche con la scuola primaria. Il 9 e il 23 maggio verranno consegnati gli ulteriori due moduli, scuola dell'infanzia e scuola media, per cui il quadro sarà completo. A quel punto tutti gli ordini di scuola, dall'infanzia alle superiori, svolgeranno l'orario antimeridiano per le attività scolastiche. Ormai sarà quasi ora di richiuderle le scuole, però insomma avete fatto davvero l'impossibile, insomma, sì, beh, per diciamo tornare. Comunque l'attività scolastica è andata avanti da sempre, dal 14 novembre, quindi a Norcia veramente siamo stati virtuosissimi in questo senso. Assolutamente sì. Diciamo che adesso a maggio finalmente avremo tutte le sedi scolastiche autonome, insomma, per tornare veramente proprio a fare scuola come si faceva prima del terremoto. Allora, per quello che riguarda Cascia, sì, mi dica. E niente, per quello che riguarda Cascia è rientrato già il liceo Ellipsia, cioè i due corsi del superiore sono già rientrati nella sede di appartenenza. Anche lì avremo una donazione invece per la scuola primaria e la scuola media nel mese di maggio. Bene. E quindi ecco. Dicevamo, insomma, no, che la situazione sta lentamente tornando alla normalità, quando ormai peraltro la scuola si sta concludendo per tutti, ma non proprio tutti, perché c'è la maturità. E naturalmente sì, immagino che anche i suoi ragazzi che stanno per affrontare l'esame di Stato avranno un po' l'agitazione che hanno tutti. Ma certo. Però no, forse sì, diciamo che a livello psicologico il fatto di questa deroga di tutti i membri interni per le zone, per i comuni del cratere sismico, è stata, diceva appunto, a livello psicologico una bella sferzata di, diciamo, di energia, perché la commissione, ragazzi, sarà composta tutta da membri interni, questo per voi come per tutte le zone del cratere. Mm-hmm. Sì, eccetto il presidente, che comunque rimarrà esterno. Vero è che comunque le prove di fatto saranno quelle ministeriali mandate con i plichi telematici, per cui i ragazzi sono invitati a studiare, ecco. Certo, non deve essere una scusa sicuramente. Certo. Ecco, ma al di là dei disagi organizzativi di cui abbiamo parlato, come stanno gli studenti delle vostre parti, voi che li vedete tutti i giorni lì, diciamo, sui che banchi, studiare, sì, in studenti, strutture semipermanenti, vivere a volte in strutture semipermanenti in un inverno che peraltro è stato anche particolarmente rigido quest'anno, non deve essere stato facile per loro. Secondo lei come stanno? No, diciamo che per certi versi le strutture semipermanenti, visti i riscaldamenti, le luci, eccetera, anzi, i ragazzi hanno trovato degli ambienti confortevoli ed accoglienti, proprio perché semipermanenti e quindi non, diciamo, strutture così facili, insomma. Sì, non dei veri e propri prefabbricati che sono più tristi, sono delle casette molto carine, molto accoglienti, sì, molto calde. Mm-hmm. Infatti, dotate dei servizi, non solo, ma arredate in tempo reale anche con diciamo supporti informatici, LIM, computer, eccetera. Quindi, diciamo, l'ambiente era accogliente e devo dire che i nostri ragazzi sono stati forse più bravi anche degli adulti, perché mentre negli adulti abbiamo vissuto una specie di tradimento dalla nostra terra rispetto a questo evento gravissimo del sisma, i ragazzi dopo un iniziale smarrimento comunque si sono rimboccati le maniche e hanno cercato di veramente di mettere le basi per un futuro ancora migliore, più determinato, insomma. Quindi hanno un tempo di recupero i ragazzi davvero e i bambini davvero straordinari, che noi adulti un po' ci sogniamo, ma io so che è anche un po' merito vostro in realtà, perché le sue insegnanti sono state bravissime. Sì, beh, io devo dire che in questo caso il sistema scuola ha funzionato alla grande, perché i docenti, oltre naturalmente alle famiglie e agli alunni, comunque i docenti hanno fatto scuola, insomma, mattina e pomeriggio, non si sono tirati indietro, no? Poi in un primo tempo eravamo isolati da un punto di vista logistico, perché le strade erano tutte bloccate, e quindi loro, che alcuni pendolari venivano da Spoleto, Perugia, Foligno, insomma, davvero si sono sacrificati, perché uscendo il pomeriggio alle 18:30 arrivavano a casa alle 9. Quindi ecco, un plauso veramente a tutto il personale che si è adoperato, insomma, per far sì che i ragazzi avessero la qualità e l'organizzazione di sempre. Eh sì, e poi quando si dice di questi insegnanti che, insomma, lavorano poco, nel suo caso quest'inverno davvero di lavoro ce n'è stato tanto, anche tanto. Extra, perché insomma gli insegnanti sono delle belle figure di riferimento per questi ragazzi. Sì. Quando sì, le famiglie vacillano, anche insomma, per dover affrontare diciamo tutta che una serie. In questo caso nel nostro territorio la scuola, diciamo, ha veicolato quel tessuto sociale che mancava, perché erano chiusi tutti i luoghi di ritrovo, insomma, cioè dalla piazza pubblica a locali di altro genere, per cui è la scuola che diciamo, ha sostituito questi luoghi e ha fatto da collante e da luogo dove incontrarsi e dove anche magari svolgere attività non solo scolastiche. Da punto di riferimento prezioso per il territorio, sì, come sempre è dappertutto, e davvero grazie alla scuola che ha questo ruolo così importante. La ringraziamo, Rosella Tonti, grazie a lei. Grazie a voi. Un bocca al lupo a tutti i suoi studenti. E continuate così, grazie. E si chiude qui questo speciale. Grazie a Raffaella Calandra, a Valentina Furlanetto per avermi aiutato a realizzarlo. Grazie ad Andrea Roccabella in regia. Un saluto da Maria Piera Ceci.